Parliamo di Africa Bar, al Teatro Argentina dal 22 al 24 giugno. Ne parliamo con Riccardo Vannuccini. Riccardo, benvenuto al Radioteatro Sonda Rossa. Grazie, buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Allora, ci racconti un po' di questo spettacolo? Volentieri. Questo spettacolo fa parte di una cosiddetta trilogia del deserto. Questo è il terzo spettacolo che facciamo a Teatro Argentina, sempre a giugno, sempre in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Due anni fa era Sabbia, l'anno scorso Respiro e quest'anno Africa Bar. Anche quest'anno siamo circa 30-35 in scena, circa 20-25 richiedenti asilo e 5-6 attori della nostra compagnia. Il lavoro è il risultato di 6-7 mesi di un laboratorio che abbiamo fatto in collaborazione con Programma Integra, che è un centro che si occupa delle questioni delle migrazioni, e saremo in scena appunto il 22, il 23, il 24 giugno al Teatro Argentina. Fra i soggetti che hanno collaborato c'è la compagnia del Cane Pezzato, che è una compagnia multietnica, la Refugee Company e SIAE, che finanzia una parte del progetto. Lo spettacolo tratta di una delle questioni cruciali del nostro tempo. Ieri sono morti, affogati altri 200 persone nel fondo al mare, e sembra ormai ci pare una cosa semplice, una cosa normale. Questo non è, e questo riguarda non solo queste persone che scappano da questi paesi in guerra, ma riguarda anche noi che li accogliamo. Senti, si tratta di un mosaico di storie o un quadro complessivo? No, è una successione di scene, perché il nostro tipo di teatro non è un teatro dove si parla molto, non è un teatro della chiacchiera, come diceva Pasolini, è un teatro che si svolge attraverso un montaggio di scene, quindi ha a che fare più col cinema, più con il teatro danza, semmai, sì, che con il teatro della drammaturgia. E in ogni caso in scena i rifugiati non sono vestiti da rifugiati, cioè queste cose le raccontano già i telegiornali, sono in giacca e cravatta, le donne in abito lungo. Noi parliamo di qualcosa che non si può vedere. Il teatro normalmente nasce per far vedere qualcosa di invisibile, come la passione, come l'immaginazione, anche perché dobbiamo fare attenzione a non fare un nuovo colonialismo culturale e a fare una categoria dei rifugiati come fossero una razza. I rifugiati, prima di diventare rifugiati, erano, noi abbiamo in scena un attore che nel Congo faceva un attore, un avvocato, un idraulico, un camionista, uno studente, delle ragazzine, quindi gente che prima di partire faceva una vita più o meno normale. Quindi la situazione del richiedente asilo, del rifugiato, deve considerarsi temporanea sia per loro, e non è facile, e sia per noi. Riccardo, c'è una dedica ad una persona? Sì, c'è una dedica a una persona, perché in questi tempi terribili di esclusione violenta, di una fatica ancora a riconoscere per esempio il femminile, la differenza tra maschile e femminile, c'è stato questo assassinio odioso in Turchia di questa transessuale, e ci sembrava doveroso, noi che questo campo protetto del teatro ravviciniamo i corpi, le tradizioni, le religioni, ci sembrava un atto dovuto, un piccolo omaggio poetico a questo assassino barbaro. Si tratta di una prima nazionale, dopodiché? Dopodiché noi saremo ancora a Roma il 30 e il 31 luglio, durante l'estate romana, e poi saremo a ottobre alla Pelanda. bisogna comunque sempre qui a Roma durante un progetto di una settimana dedicato, diciamo, al teatro come rammendo. Bisogna considerare che questo è un spettacolo molto complicato da spostarsi, sì. Le persone vengono da centri molto distanti, da Castelnuovo di Porto, da Guidonia, da Roma Est, da Roma Sud, da Roma Ovest, quindi non facile da mettere insieme queste persone, che per fare questi 6 mesi di prove è stato anche per loro veramente un risveglio, però impegnativo, perché spesso hanno dovuto saltare il pasto, la cena, stanno facendo, alcuni di loro stanno facendo il Ramadan, quindi è complicato, e siamo in scena quasi 35 persone tra poi i tecnici, quindi è una carovana che è difficile da spostare. Ciononostante, appunto, alla fine di luglio saremo ancora a Roma, e poi a ottobre torneremo ancora a Roma, a novembre ci aspetta un progetto in Iraq. In chiusura, il titolo Africa Bar? Il titolo Africa Bar è un po' una presa in giro un po' di noi occidentali, o una parte di noi occidentali, che pensano che queste persone partono dall'Africa dopo un anno che riescono a attraversare il deserto, poi si mettono su questi barconi come se fosse uno yacht, un viaggio di piacere. Quindi immaginiamo che in questo grande stanzone siamo un po' tutti. Noi non parliamo dei rifugiati, parliamo della vulnerabilità dell'essere umano, quindi ci siamo noi tutti, tedeschi col problema Merkel, francesi col problema Macron, italiani con i nostri problemi ancora più complicati, e africani che certamente hanno rischiato la vita. È un punto di vista certamente più drammatico, più tragico, ma la situazione che ci interessa è dove sta andando l'essere umano, e al momento tutti questi esseri umani, tutto questo grande gruppo di persone sta dentro questo bar, questo gigantesco bar, e fra una bibita e l'altra riflette sulle cose dell'esistenza. Bene, allora ricordiamolo, Africa Bar, 30 attori in scena, in uno spettacolo di Riccardo Vannuccini, al Teatro Argentina dal 22 al 24 giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Riccardo, un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro. A presto, ciao.